E allora, buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Una nuova puntata di Entropia Massima, Emergenza Zero. Questa sera passo subito, immediatamente, la parola a Gianmario, nostra vecchia conoscenza, nostro vecchio amico socio, che rivolgerà delle domande a Giorgio Vacchiano, diciamo sulla situazione attualissima. E sui rapporti fra pandemia e ambiente naturale. Poi entriamo più nello specifico durante questa ora che trascorreremo insieme. Quindi passo subito la parola a Gianmario e a Giorgio. Ok, ciao Chiara, grazie mille per la presentazione. Allora, la settimana scorsa è stata la cinquantesima, cioè ci sono stati i festeggiamenti, diciamo così, della cinquantesima giornata mondiale della Terra e noi di Geologia Senza Frontiere ci siamo naturalmente chiesti come poter vivere nel nostro immaginario, nel nostro pensiero, una giornata mondiale di così importanza. Naturalmente rapportandoci a questo momento delicato storico che sta vivendo tutto il mondo e che è appunto contraddistinto da questa nuova pandemia del coronavirus e quindi ci siamo un po' tutti quanti chiesti come gli ecosistemi possano rapportarsi, legarsi e interagire appunto con anche il sorgere di nuove pandemie come questa. Noi sappiamo che dall'ultimo rapporto ONU sullo stato della biodiversità planetaria ha dichiarato ormai percentuali elevate di ambiente terrestre e marino come modificati in modo significativo dalle attività antropiche. E se non vai adesso circa 1 milione tra specie animali e vegetali rischiano l'estinzione. Quindi naturalmente l'impatto dell'attività antropica sulla natura sta determinando quelle che sono le perdite degli habitat, cioè quelle che sono le creazioni di ambienti sempre più artificiali, quindi diciamo una distruzione, una perdita complessiva di biodiversità che è accompagnata naturalmente dalla crisi climatica che tutto il mondo sta subendo e che non ha precedenti. All'interno di questa distruzione delle aree naturali, appunto a vantaggio delle attività antropiche, ci sono anche le foreste che sono una sorta di filtro naturale tra quello che può essere l'ambiente umano e gli ambienti naturali. E quindi noi di GSF ci siamo chiesti se ci fossero dei legami, se ci sono dei legami tra quello che è l'attività continua, perpetua e annosa delle deforestazioni con l'insorgere anche di nuove patologie. Ed è un piacere e un onore avere con noi il docente in gestione e pianificazione forestale all'Università Statale di Milano, nonché ricercatore Giorgio Vacchiano, che salutiamo calorosamente e che naturalmente ci farà comprendere meglio quali tipi di rapporti e collegamenti esistono tra la problematica delle deforestazioni e la nascita di nuove zoonosi. Allora, ciao Giorgio, vengo subito al dunque e ti chiedo se esiste un forte legame che collega deforestazioni e zoonosi. Bene, buonasera a tutti, grazie intanto di questo invito. Il legame tra gestione dell'ambiente, del territorio e delle foreste in particolare e zoonosi è molto preciso ed è stato più volte approfondito da diversi lavori scientifici. Premetto che per questo coronavirus è ancora presto per avere questo tipo di informazioni, bisognerà aspettare gli studi che cercano di ricostruire quali sono stati i passi per la diffusione del virus e soprattutto per il suo salto di specie, cioè per il passaggio da quello che pensiamo essere stato il primo serbatoio, cioè una specie di pipistrelli, quelli a ferro di cavallo della Cina, all'uomo. Sappiamo che questo passaggio è probabilmente avvenuto nella zona di Wuhan, dove ci sono questi mercati di vendita di animali vivi, mezzi morti, in parte macellati, in condizioni igieniche non eccezionali. Quindi abbiamo due fenomeni davanti a noi. Il primo è come gestiamo l'ambiente in cui questi animali si trovano a vivere. Dicevo, non per questo coronavirus, ma per altre zoonosi emergenti degli ultimi 20 anni, in cui abbiamo registrato un'impennata di questo fenomeno, soprattutto con i virus, sappiamo che la distruzione o il degrado delle foreste ha spinto gli animali che vi vivevano a entrare più facilmente in contatto con l'uomo. Questo è vero, per esempio, per una zoonosi molto famosa, il virus Ebola, quindi con la sua epidemia nell'Africa tropicale, che in parte è ancora in corso, sappiamo che è transitato all'uomo, forse anche in questo caso a partire da una specie di pipistrelli, nel momento in cui la foresta in cui questi pipistrelli abitavano è stata non eliminata del tutto, ma semplicemente degradata, noi diciamo frammentata in gergo tecnico, cioè si aprono delle strade, delle vie di comunicazione o magari delle attività agricole in quella che prima era una foresta vergine intatta. Le popolazioni animali che prima avevano a disposizione un territorio molto ampio improvvisamente si trovano a vivere in un territorio frammentato, interrotto da tutte queste infrastrutture o strutture umane. La loro reazione è quella di spostarsi e andare a cercare un habitat più favorevole oppure un ambiente alternativo per rimpiazzare quello che hanno perso o quello che si è improvvisamente rimpicciolito davanti ai loro occhi. Si pensa, per esempio, che abbiano iniziato a frequentare molto di più i parchi urbani, i giardini, quindi quelle zone delle città che già erano a contatto con la foresta e che per loro ricordavano di più l'habitat originale, moltiplicando quindi l'occasione di contatto con l'uomo e di trasmissione di quel tipo di virus. Moltissime, direi quasi tutte, le epidemie emergenti degli ultimi 20 anni sono originate in un modo simile, quindi partendo da una popolazione di animali selvatici e trasferendosi all'uomo. Addirittura questo parrebbe essere vero anche per diciamo, la pandemia per eccellenza prima di quella attuale, cioè quella del virus dell'AIDS, sul finire degli anni 70, inizio degli anni 80, pare abbia fatto il salto di specie a partire da alcuni macachi o altre specie di scimmia africana, anche in questo caso che venivano dalla foresta, quindi cui habitat era stato probabilmente degradato, spingendo gli animali a entrare più facilmente a contatto con loro. Ecco, ti disturbo un secondo, Giorgio, questo salto di specie è quello che viene definito spillover? Sì, esattamente. Ormai il libro di David Quammen è diventato famosissimo, si chiama proprio Spillover e descrive questo fenomeno. Ma oltre al libro di Quammen, che diciamo ha popolarizzato questa nozione, ci sono diversi studi scientifici che hanno proprio ricostruito la catena della trasmissione dei virus. E guardate, questo fenomeno non riguarda solo i virus, riguarda anche altri possibili patogeni umani. Un esempio che si fa molto spesso è quello dei patogeni trasmessi dalle zanzare. La malaria è ovviamente il più famoso, ma un altro che è balzato agli onori delle cronache è il virus Zika, quello in virtù del quale, per esempio, è diventato difficile recarsi in vacanza in paesi tropicali, perché questo virus si sta espandendo molto e può mettere seriamente a rischio la salute dei bambini e delle donne incinte. Questo virus è trasmesso dalle zanzare e quando una foresta vergine viene gestita in modo insostenibile, quindi si tagliano troppi alberi, si calpesta il suolo con mezzi meccanici che lo rendono molto più compatto e impermeabile, sembra che questo moltiplichi i luoghi dove si formano delle piccole pozzanghere, dei ristagni d'acqua, che prima invece venivano drenati facilmente dal suolo della foresta. E sono proprio gli habitat idonei allo sviluppo delle larve delle zanzare, come ben sappiamo. Zanzare che in quei territori trasmettono questo tipo di patogeni, e quindi anche in questo caso stiamo, diciamo, creando un ambiente molto favorevole affinché chi trasporta questi patogeni possa svilupparsi bene e portarli più vicini a noi. Quindi tutto sembra dirci come la salute delle foreste e degli ecosistemi in realtà ha molto a che fare con la nostra. Posso chiederti al volo una precisazione sul significato, sulla definizione di zoonosi che hai utilizzato all'inizio per capire meglio il concetto? Quando parliamo di zoonosi, parliamo di malattie umane che trovano la loro origine in specie di animali selvatici. E quindi attaccano o riguardano gli animali selvatici e in seguito a quello che chiamiamo salto di specie si possono trasmettere all'uomo. L'uomo quindi non è attrezzato a combattere queste malattie proprio perché sono nuove per la nostra specie, non le abbiamo mai sperimentate, hanno riguardato altri animali che invece hanno potuto sviluppare nel tempo grandi forme di resistenza. Questi pipistrelli di cui parliamo in continuazione convivono probabilmente con molti tipi di coronavirus da diverse migliaia o addirittura milioni di anni. Perché proprio i pipistrelli? Beh, si pensa che i pipistrelli si prestino molto bene a incubare e far diffondere i virus, soprattutto perché vivono in gruppi molto molto fitti, molto densi. Rispetto anche a altri animali o altri mammiferi, le colonie di pipistrelli hanno decine o centinaia di migliaia di individui e quindi si pensa che i virus abbiano trovato nei pipistrelli un buon serbatoio per diffondersi. A loro volta i pipistrelli si attrezzano per conviverci, c'è la selezione naturale che lavora con i suoi tempi e quindi abbiamo una popolazione di animali che ospita un virus senza rimanerne vittima, ma restando per così dire a un livello di contagio endemico, quindi c'è il virus ma i pipistrelli non ne subiscono le conseguenze. Benissimo, direi quindi ci possiamo fermare per questa prima parte, una breve pausa musicale. Peter Tosh, Equal Right. Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. You better give it up to I. the bottom. Nobody knows but everybody fighting to reach the top. How far is it from the bottom? E allora di nuovo in voce, anche se ancora registrata, siamo su Onda Rossa 87.9, siamo a Emergenza Zero e questa sera parliamo di legami fra la pandemia che stiamo attualmente vivendo e appunto l'ambiente naturale, in particolare con le zone forestate, con la salute anche delle foreste. Quindi ripasso di nuovo la parola a Gianmario e al nostro ospite Giorgio Vacchiano. Grazie Chiara, esattamente. Allora, dunque, noi sappiamo che le foreste coprono più del 30% delle terre emerse e costituiscono l'habitat per circa l'80% della biodiversità terrestre. Naturalmente la deforestazione, diciamo, è una delle principali cause del riscaldamento globale, perché produce percentuali di emissioni gas serra all'incirca che vanno tra l'11 e il 12%. Allora chiedo a Giorgio, quali sono le cause delle deforestazioni, i trend e i legami anche con i consumi? Sì, hai detto bene, le foreste attualmente coprono circa un terzo delle terre emerse a livello globale, è un numero che è facile da ricordare perché riguarda anche l'Italia, un terzo del nostro territorio attualmente è coperto da boschi e foreste. Una nazione che in realtà è in controtendenza col fenomeno mondiale. In Italia le foreste stanno aumentando addirittura e si stanno espandendo spontaneamente in quei territori da cui l'uomo si ritira e annulla le proprie attività. Parlo in particolare dei campi coltivati o delle aree pascolate in montagna, nelle aree interne, in tutti quei territori dove non è più conveniente restare. E in parallelo con l'urbanizzazione, da noi c'è un fenomeno di riforestazione spontanea del territorio. Questo riguarda l'Europa, ma come dicevi giustamente, non riguarda invece il resto del mondo. A livello planetario il trend che la fa ancora da padrone invece è la deforestazione. Qui vorrei definire bene di cosa stiamo parlando. Quando diciamo deforestazione, parliamo della eliminazione completa della foresta per fare spazio a un altro tipo di uso del territorio, normalmente quello agricolo, quindi campi coltivati oppure pascoli per il bestiame. Cioè il processo inverso rispetto a quello che sta avvenendo in Italia, come ho descritto prima. Spesso girando i nostri boschi, i nostri territori, magari vediamo che degli alberi vengono tagliati, la foresta viene gestita, ci sono vari motivi validi o meno validi per fare questo, ma non si parla in questo caso di deforestazione se gli alberi dopo in un modo o nell'altro ricrescono. Quindi se noi utilizziamo magari il legno degli alberi in modo da farli poi ricrescere, o a partire dai loro semi, o a partire dai ricacci che si sviluppano dopo il taglio, noi parliamo di taglio del bosco, di utilizzazione del bosco, ma non di deforestazione, perché la foresta continua a esserci. Al massimo si ringiovanisce, riparte, ma continua a rimanere. Non così in quelle zone del mondo dove invece la deforestazione avanza. Parliamo soprattutto delle foreste tropicali. Il bacino dell'Amazzonia, che copre 8 stati del Sud America, non solo il Brasile, che spesso ci viene in mente, ma anche la Colombia, il Venezuela, il Paraguay, l'Ecuador, il Perù. Tutti questi sono territori dove l'Amazzonia esiste e viene minacciata costantemente. Le foreste del bacino del Congo, che è il secondo grande bacino forestale di foreste vergini del mondo, e le foreste tropicali dell'Indonesia. Questi sono i 3 punti caldi della deforestazione mondiale. L'80% della deforestazione è dovuto all'agricoltura o all'allevamento, quindi a questo settore di attività che sono attività che possono essere fatte in molti modi. Non è vero che l'agricoltura e l'allevamento siano sempre negativi, del resto sono quelli che ci forniscono il cibo. Ci sono modi per farli, per metterli in atto, che sono più sostenibili e altri invece che esercitano un impatto insostenibile sul territorio. Quando si elimina una foresta tropicale per fare un campo di soia, come avviene nella maggior parte dei casi in Sud America, questo soia che tra l'altro non serve all'alimentazione umana, ma serve all'alimentazione degli animali, quindi ha a che fare con la produzione di carne, soprattutto con l'alimentazione non solo dei bovini, come spesso si dice, ma moltissimo anche del pollame e dei suini. Molto del pollo allevato in Cina viene nutrito con soia brasiliana, quindi ci sono questi grandi flussi di merci da un capo all'altro del pianeta da cui dipende il benessere o il malessere dei nostri ecosistemi. In altri luoghi la causa può essere diversa, per esempio in Indonesia la gran parte della deforestazione avviene per far posto alle piantagioni di palma da olio, un altro prodotto che entra questa volta non tanto nella filiera agroalimentare quanto in quella industriale. Sono tantissimi prodotti che noi usiamo che utilizzano l'olio di palma. In Africa è ancora diverso, ci sono di nuovo alcune produzioni alimentari come il caffè e il cacao che possono in alcuni casi produrre deforestazione, non sempre, dipende da come vengono effettuate. E poi c'è l'agricoltura di sussistenza, quindi lì dove abbiamo una popolazione povera, dove ci sono le più forti diseguaglianze, ovviamente la preoccupazione principale non è tutelare l'ambiente, ma è sopravvivere, per cui la raccolta, per esempio, della legna per cucinare o riscaldarsi in Africa è uno dei fattori principali di deforestazione. E poi ci sono anche altre cause minori, ma localmente molto impattanti, come la ricerca dei minerali, l'estrazione dell'oro, in particolare per il Perù, per la zona di Madre de Dios, o la ricerca di legni pregiati. Parlavo prima di utilizzazione degli alberi, anche qui c'è un modo di farlo sostenibile e uno insostenibile. Molto spesso il prelievo di specie pregiate tropicali nel bosco primario è il primo passo nella catena della deforestazione. Lì dove non c'è niente viene aperta una pista, una strada per arrivare a prelevare questi alberi di grande valore economico. Una volta che la pista è stata aperta, viene poi utilizzata da tutti gli altri soggetti di cui abbiamo parlato, gli agricoltori, gli allevatori, i cercatori di minerali e così via. Spesso finanziati o comunque favoriti da governi compiacenti. Ci sono due livelli di cause. Il primo è la causa immediata, al singolo contadino che vuole aprire un nuovo campo, un nuovo pascolo. E poi il secondo livello è il sistema politico-economico che stimola il contadino a fare questo perché lo ricompensa oppure perché non ha una serie di leggi a tutela dell'ambiente che impediscono la deforestazione. E poi infine c'è il terzo livello, che è quello che riguarda noi, quindi noi consumatori. Una parte, almeno un quarto per l'Amazzonia, della deforestazione non è praticato per soddisfare una domanda locale, quindi di consumatori brasiliani, ma per vendere prodotti a consumatori oltreoceano, europei, cinesi o americani. Alcuni dei prodotti che noi importiamo portano un'impronta di deforestazione. Quando noi li compriamo stiamo contribuendo a causare deforestazione dall'altra parte del pianeta, magari senza saperlo. E abbiamo provato a fare due conti e per l'Italia è abbastanza incredibile il fatto che l'espansione delle foreste che avviene da noi è quasi esattamente controbilanciata dalla distruzione delle foreste per produrre i beni che importiamo. Beh, sì, questo è veramente impressionante e molto chiaro come discorso e come meccanismo. Diciamo che ce l'hai raccontato in maniera veramente chiara. E ci puoi fare qualche esempio di questi prodotti? Cioè, si parla appunto di prodotti alimentari, prodotti del legno, appunto quello che dicevi, legni pregiati, ma immagino anche derivati o anche per medicina, mi viene in mente? Ci sono tre prodotti che dominano questo tipo di mercato. Uno l'abbiamo già citato, è la soia per l'alimentazione animale. appunto dicevamo, non tanto, non solo per i bovini, ma anche per altri tipi di animali come i suini o il pollame. Il secondo è l'olio di palma, quindi qua parliamo dell'Indonesia, un prodotto che in realtà troviamo in moltissimi beni che noi acquistiamo. Diventa difficile di fatto evitare di comprarlo, se anche volessimo mettere in piedi un'azione di boicottaggio o di obiezione civile, perché l'olio di palma è uno degli oli più a buon mercato, ma anche più produttivi a parità di territorio utilizzato per coltivare le piante da cui viene ricavato, ha un'ottima lavorabilità, insomma non è un caso che si sia diffuso così ampiamente negli ultimi anni, perché ha delle proprietà che a livello industriale sono particolarmente adeguate al suo utilizzo. Ho letto per esempio un articolo di un professore del Politecnico di Zurigo qualche settimana fa, in cui si faceva un confronto tra l'olio di palma e un altro prodotto a cui spesso non associamo un'impronta negativa, cioè il caffè. Dicevo prima, il caffè può essere coltivato in molti modi diversi, è un prodotto che può crescere tranquillamente all'ombra degli altri alberi e quindi si può coltivare senza deforestare, si può di fatto far crescere il caffè in una foresta o almeno in un bosco, diciamo. Molto spesso però per comodità di lavorazione, di coltura, invece la foresta viene eliminata per far posto al caffè. Parliamo qui dell'Africa. E a parità di diciamo ettari globali interessati da queste due colture, il caffè e l'olio di palma, il caffè è più problematico perché diciamo l'olio di palma è quasi necessario ormai in tantissime lavorazioni, in tantissimi prodotti, è molto difficile sostituirlo. Volendo, il caffè è ancora invece un bene di lusso, qualcosa di cui possiamo fare a meno. Col caffè si fa solo il caffè, o dei biscotti, non lo so, dei gelati, però ecco, ha molti meno impieghi dell'olio di palma. Allora, visto che parliamo di circa 100.000 ettari di colture dell'uno e dell'altro, le azioni in questo caso potrebbero essere molto diverse. L'olio di palma bisogna fare degli accordi internazionali e cercare magari di coltivarlo in modo più sostenibile possibile, senza eliminare foreste primarie, ma andando a piantare la palma da olio su altri terreni, dove non c'era una foresta vergine. Mentre il caffè può dipendere di più dalle abitudini dei consumatori, perché è più facile non comprarlo o comprare del caffè con qualche certificazione di sostenibilità ambientale e magari anche sociale, dei diritti del lavoro, già che ci siamo, no? Quindi diciamo, è interessante conoscere queste filiere, perché anche il tipo di azione che si può fare cambia molto. Vi sfido, ripeto, a evitare di comprare olio di palma, è praticamente impossibile. Quindi da quel lato lì invece dovremmo chiedere che i governi o gli organi internazionali facciano di tutto per accordarsi e produrre l'olio di palma in modo sostenibile. Esiste già una dichiarazione, la New York Declaration on Forest, che si concentra proprio su questo prodotto, e del 2014 si sta facendo un po' di fatica a implementarla, ma è già una buona base da cui partire. L'ultimo prodotto di cui vorrei parlare è uno che invece si associa molto poco alla deforestazione nel pensiero comune, ed è la pelle. Il pellame bovino normalmente è un sottoprodotto della carne. Gli animali da carne vengono allevati per essere macellati, messi nella filiera agroalimentare, la pelle viene poi venduta una volta che l'animale è stato macellato per un altro motivo. Ma in realtà la pelle, siamo proprio in Italia, sappiamo benissimo che può avere invece un valore aggiunto altissimo, molto superiore a quello della semplice carne a uso alimentare. E purtroppo ci sono diverse produzioni di eccellenza italiane, tra cui quella della pelle, pensiamo ai distretti toscani, che utilizzano pelli provenienti da allevamenti meno che sostenibili. Purtroppo la catena della macellazione introduce delle incertezze, è molto difficile riuscire a tracciare il percorso che fanno questi animali, da vivi e da morti, perché vengono fatti passare da un macello all'altro, poi a un punto di raccolta, spesso le carte vengono ancora falsificate, quindi anche con un sistema di controlli di leggi è una filiera molto a rischio. Questa della pelle. E l'Italia è il primo importatore di pelli da nazioni come il Paraguay, che sono appunto nel cuore dell'Amazzonia. Per cui questo aspetto, questa merce nelle nostre scarpe o borsette o agende è qualcosa da tenere d'occhio molto più che in passato. Bene, chiarissimo, direi facciamo ancora un altro breve intervallo musicale per risentirci in voce tra pochissimo. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escúchale clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. E allora eccoci, eccoci di nuovo in voce. Lei era Anna Tijoux, Antifa Dance. Ritorniamo a parlare con Gianmario e Giorgio dei rapporti esistenti fra deforestazione e la nascita e diffusione di nuove zoonosi. E lascio quindi la parola a Gianmario. Sì, grazie Chiara. Dunque, diciamo che in questo periodo di pandemia Covid 2019 si è un po' accantonato quello che è, diciamo, l'argomento principale di questi ultimi anni, che poi è quello legato ai cambiamenti climatici e agli effetti sulla salute, sull'uomo. E quindi ecco, io adesso vorrei chiedere a Giorgio quali sono gli effetti climatici, i cosiddetti punti di non ritorno, diciamo, i rapporti che esistono con il consumo di suolo, la siccità e quello che sono gli incendi che vengono appunto a causa delle deforestazioni. Sì, quando si eliminano degli alberi, la prima conseguenza è che il carbonio contenuto in questi alberi e anche nel suolo che li ospitava viene più o meno istantaneamente liberato nell'atmosfera. Abbiamo visto l'anno scorso come il fuoco sia molto spesso uno degli strumenti, o se non il principale, usato in questa azione di deforestazione, cioè di eliminare le piante per far spazio a qualcos'altro. E chiaramente quando bruciamo un pezzo di legno, appunto il carbonio contenuto al suo interno scappa via e va ad aggiungersi a quello che noi già normalmente emettiamo in grandi quantità bruciando i nostri combustibili fossili. Attualmente, secondo l'IPCC, che sta preparando il suo sesto rapporto sullo stato del clima terrestre, la deforestazione è direttamente responsabile del 10-12% delle emissioni di gas serra. Questo ci dice un'informazione importante, ci dice che in realtà l'80%, quindi 4/5 del problema climatico è dovuto a qualcos'altro, è dovuto all'uso quotidiano che facciamo di petrolio, carbone e gas naturale in tutte le nostre attività. Quindi l'indignazione globale dell'anno scorso per la deforestazione in Amazzonia dovrebbe essere moltiplicata per 4 per qualcosa che avviene sotto il nostro naso quotidianamente, anche se adesso in questo periodo di lockdown ha rallentato, ma è un rallentamento solo temporaneo. Noi stiamo premendo solo il tasto pausa su tutte le nostre attività. Non appena riprenderemo, riprenderanno anche le emissioni, almeno finché non cambiamo radicalmente il modo in cui facciamo le cose. Ecco, difatti, Giorgio, una grande paura anche mia personale è che, diciamo, poi alla ripresa della normalità, diciamo, le grandi corporation, eccetera, eccetera, siano un po' quasi mandate in deroga, no? Giustificate per emettere anche in maniera più prepotente, no? Rispetto a prima. Tu cosa ne pensi? È una cosa a cui dovremmo fare moltissima attenzione. E c'è molta attenzione a questo problema, almeno non solo nella comunità scientifica, ma lo sento nell'opinione pubblica. È una domanda che mi viene rivolta molto spesso. Non dubito purtroppo che ci saranno paesi dove questo avverrà, dove lo stimolo economico prescinderà dalle tutele ambientali, anzi, se possibile, le allenterà ulteriormente. Probabilmente si tratterà dei paesi che già hanno la tendenza a continuare a considerare l'ambiente come qualcosa di separato da noi, qualcosa da proteggere ogni tanto, se si riesce, se va bene, ma che in fondo non influenza il nostro benessere, la nostra salute. Ecco, un po' per riprendere le fila di tutto, anche i cambiamenti climatici è provato che invece hanno un impatto fortissimo sulla nostra salute. Pensiamo ai picchi di mortalità durante le ondate di calore estive, che continuano a essere sempre più intense e frequenti a causa delle modifiche al clima. Pensiamo alle malattie cardiovascolari in un clima più caldo. Pensiamo ai pericoli diretti in occasione degli eventi estremi, come uragani o piogge più intense, o soprattutto a quelli indiretti, che seguono magari il diventare vulnerabile di molte persone già svantaggiate. C'è un sovrapporsi di minacce, la minaccia ambientale, quella climatica e anche quella sociale. Nel mondo, anche nelle nostre città, le persone svantaggiate sono quelle più esposte, più vulnerabili, e sono quelle che si possono trovare in pericolo di vita oppure in condizioni in cui per loro è necessario spostarsi. Neanche le migrazioni sono un'altra conseguenza importante dei cambiamenti climatici. Se facciamo risalire, e dobbiamo far risalire tutto questo alle sue cause, quindi in parte all'uso dei combustibili, in gran parte all'uso dei combustibili fossili, quindi richiederà il ripensare come produciamo l'energia, per esempio, o come ci spostiamo, e in parte sulla deforestazione e sulle sue cause di cui abbiamo parlato prima. Il messaggio complessivo può essere questo: la nostra salute è strettamente legata a quella degli ecosistemi. L'uomo e la natura non sono due entità separate. La natura non è qualcosa dove andiamo nel weekend per ristorarci e da cui poi usciamo tornando a casa la domenica sera. È l'ambiente che ci permette di sopravvivere. È il sistema che ci dà il supporto vitale, che ci fornisce cibo, acqua, un clima relativamente tranquillo, stabile e non minaccioso, e addirittura il filtro, la protezione dalle pandemie, come stiamo vedendo in questi giorni. Bisogna quindi fare di tutto per mantenere questo ambiente nelle condizioni in cui ci può supportare al meglio, può garantire al meglio la nostra sopravvivenza e il nostro benessere. Qualche giorno fa, in occasione della 50ª giornata della Terra, ho sentito un'intervista a Greta Thunberg e a John Rockström, che è il direttore del PIC, uno degli istituti di ricerca sul clima più importanti del mondo, a Berlino. E a entrambi è stato chiesto qual è l'azione più importante che ognuno di noi può fare come singoli per contrastare il cambiamento climatico o per tutelare il nostro ambiente. Una domanda che si sente fare molto spesso. Sovente le risposte sono usare meno l'auto, spegnere le luci, mangiare meno carne, che abbiamo visto può avere un effetto sulla conservazione delle foreste, prendere meno l'aereo, la macchina e così via. Invece la loro risposta mi ha spiazzato, è stata molto originale. Greta ha detto che l'azione più importante che possiamo fare come singoli è informarci, perché solo conoscendo queste connessioni e rendendoci conto di quanto siamo collegati agli ecosistemi, anche quelli dall'altra parte del mondo rispetto a dove abitiamo, possiamo poi agire di conseguenza. E John Rockström invece ha detto la prima azione è smettere di parlare della crisi in corso come una crisi ambientale, iniziare a parlare di crisi di salute, crisi sociale, crisi umana, proprio perché non c'è una separazione. Se parliamo di crisi ambientale o di natura in difficoltà o di salvare il pianeta, continuiamo a usare un linguaggio che allontana da noi questo problema e che lo farà restare sempre residuale rispetto alle altre esigenze, agli altri diritti, mentre invece è quello che permette a tutti gli altri diritti di esistere e di fiorire. È la base della nostra vita, lo è sempre stato da 3 milioni di anni a questa parte, quindi dovremmo trattarlo come tale. Sì, si può solo concordare pienamente con questa posizione, con queste idee, ma volevo prendere uno spunto da una cosa che avevi detto poco fa e che è un po' la base appunto del filone della trasmissione di Emergenza Zero, cioè nel senso è il fatto che sempre più in queste situazioni, in situazioni di emergenza, il primo passo che viene fatto nella gestione, diciamo, appunto del territorio, nella gestione anche degli aspetti economici e politici, è quello di agire in deroga, cioè di andare avanti, visto che si è in situazione di emergenza, che può essere, l'abbiamo vista bene, in situazioni di in zone terremotate, nelle varie zone negli ultimi anni che hanno subito sismi, oppure appunto causa di cambiamento climatico. Che cosa si fa? Bisogna agire di fretta e bisogna agire e quello che viene fatto molto spesso è agire in deroga. Era stato quasi, abbiamo rischiato molto con la costituzione della protezione civile SPA, il rischio di andare veramente verso solo leggi in deroga riguardo ambiente e appunto pianificazione territoriale. E quindi volevo così una riflessione anche su questo, diciamo. Concordo assolutamente sul fatto che il dire crisi ambientale è qualcosa che la allontana, è una nostra crisi, è la crisi della nostra società, assolutamente. Però quanto la vedi anche appunto come impatto sulle foreste, nel senso lo vediamo molto bene nella gestione del territorio, però se hai tu anche esperienza di questo, o consapevolezza, insomma, se hai esempi o situazioni di questo tipo in Italia o nel mondo, ovviamente. Sulle foreste posso fare 2 esempi molto precisi. Il primo è di tutte quelle foreste che nei territori montani aumentano la resistenza, la protezione delle comunità dai rischi naturali, dal dissesto idrogeologico. Le foreste hanno proprio questo potere non solo di essere, diciamo, resilienti loro, ma di rendere resilienti anche chi ci abita vicino, perché se messe su un versante in pendenza possono fermare o rallentare per esempio i massi in caduta, trattenere il suolo con le loro radici, impedire che frani in occasione di piogge o di temporali e così via. Quindi mantenere queste foreste in salute ha un riflesso immediato sulla sicurezza e in alcuni casi la sopravvivenza delle persone che abitano, che frequentano la montagna. Mantenerle in salute, che può voler dire nei nostri casi anche dare loro una certa forma. Sono foreste, contrariamente a quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono modificate dall'uomo ormai da centinaia, se non migliaia di anni in alcuni casi, quindi non sono certe foreste vergini, hanno la loro importanza, hanno il loro funzionamento. Nel rispetto di questo funzionamento è possibile anche agire, per cui per esempio rinnovare una parte della foresta, ringiovanirla con il taglio degli alberi e lo sviluppo di nuovi alberi al loro posto. Questa ovviamente è una condizione fondamentale per non deforestare, ma che in alcuni casi può essere, oltre che necessaria, anche benefica. Il secondo è l'utilizzo del legno. Prima ho parlato del prelievo di legni tropicali come una delle cause di deforestazione. In Italia un'altra eccellenza è quella dell'industria del mobile, che mobilizza quasi 400.000 posti di lavoro in tutta la nazione. Nonostante le nostre foreste siano in aumento, noi importiamo ancora la stragrande maggioranza di questa materia prima, del legno, il che vuol dire che spesso la importiamo da paesi dove non viene estratta, non viene utilizzata o prelevata, ecco, correttamente, ma dove ci sono impatti ambientali forti. Noi abbiamo un buon sistema di leggi per la tutela delle foreste, anche delle foreste dove il legno si può prelevare, ci sono dei limiti forti che assicurano la compatibilità di questa azione con la conservazione dell'ecosistema, per cui usare, cioè, usare meglio la nostra risorsa ha anche l'effetto di ridurre gli impatti negativi a grande distanza, un po' la delocalizzazione degli impatti ambientali, no? Per cui il messaggio in questo caso è che bisogna stare attenti alle connessioni, alla complessità, anche a quella grande distanza. A volte, non so, per fortuna la sensibilità sugli alberi è molto alta, c'è chi quando vede tagliare un albero in una foresta si oppone perché l'albero deve restare a fare il suo lavoro, ma bisogna capire se il non tagliarlo può avere degli effetti ancora peggiori dall'altra parte del mondo. Quindi non c'è mai, diciamo, una risposta facile, tutta la terra è connessa, tutti gli ecosistemi sono collegati a distanza, bisogna conoscere e lasciarsi anche affascinare, se volete, da queste connessioni, perché è anche qualcosa che in primo luogo ci stupisce, e poi valutare bene il bilancio ambientale complessivo. Bene, direi che se non ci sono altre domande, ringrazio molto Giorgio per essere stato con noi e per averci chiarito, insomma, in maniera molto dettagliata e appunto chiara i rapporti fra foresta, cioè diciamo più sulla vita delle foreste a partire da quello che può essere stato il legame fra habitat naturali e appunto salto di specie e spillover di cui si parlava all'inizio. Quindi saluto Giorgio, ringrazio molto. Grazie a voi e arrivederci alla prossima occasione. E grazie Giamma per l'intervista. Quindi... Grazie a voi, grazie a Radio Onda Rossa come sempre. E allora ultimo breve stacco musicale, questo è Herbie Hancock con Miles Davis, Riot. Thank you. Ed eccoci di nuovo in voce, questi erano Herbie Hancock con Miles Davis, Riot. Torniamo a Entropia Massima, torniamo a Emergenza Zero, ultima parte della trasmissione, lascio la parola a Paolo per aggiornamenti su Acqua Pubblica. Ben ritrovate, ben ritrovati a tutte e tutti. Un breve aggiornamento rispetto alla situazione dell'acqua pubblica. E ovviamente in questo periodo di quarantena le novità non sono molte e quelle che ci sono anche abbastanza negative, perché al momento le disposizioni sono, rispetto al servizio idrico, sono una proroga della sospensione dei distacchi fino al 3 maggio, quindi a scadenza molto ravvicinata, e non c'è per ora notizia di una ulteriore proroga, e su questo ovviamente noi ci siamo attivati per chiedere che invece venga estesa a tutto il periodo della reale emergenza, appunto la sospensione dei distacchi, ma soprattutto quello che noi abbiamo richiesto sin da subito è che fosse istituita una tariffa di quarantena, perché le ricerche e i dati parlano appunto di un aumento dei consumi dovuto all'obbligo di restare a casa e anche a tutte le disposizioni igienico-sanitarie, quindi il fatto di ad esempio solo di lavarsi più di frequente, soprattutto le mani, comporta un aumento dei consumi e comunque è inevitabile che stando a casa le famiglie si arrivi ad un consumo maggiore. Quindi la tariffa di quarantena che noi chiediamo è l'applicazione della fascia agevolata di costo al metro cubo. Al momento non c'è stata risposta, una questione su cui adesso vorremmo un po' rafforzare la campagna e anche lo strapotere che sta dimostrando l'autorità, l'ARERA, l'autorità di regolazione del servizio idrico, luce, gas e igiene ambientale, quindi gestione dei rifiuti, perché quello che a noi pare assurdo è che il governo si stia prodigando in una serie di provvedimenti, soprattutto restrittivi in termini di libertà personali e su tutte le questioni della vita quotidiana delle persone, e su una cosa così fondamentale come la garanzia di un servizio essenziale alla vita come quello dell'acqua, invece non si legiferi, ma si lascia sostanzialmente carta bianca e mano libera ad ARERA, che è un'autorità indipendente ma fino a un certo punto, e noi crediamo che invece appunto su temi così importanti debba essere in primis il Parlamento. Ci sono stati degli emendamenti che sono stati presentati per esempio al decreto Cura Italia proprio sulla proroga della sospensione dei distacchi a tutto il periodo dell'emergenza e che sono stati bocciati, e questo a conferma del fatto che appunto l'unica che può intervenire in questa materia è ARERA, e per noi questo è un fatto grave, perché ovviamente esautora sia il Parlamento che anche gli enti locali da qualsiasi possibilità di decidere su questo tema. Appena ce ne sarà l'opportunità, vorremmo anche rilanciare la richiesta di riavvio della discussione della legge per l'acqua, perché se è un tema che è emerso con forza da questo periodo di pandemia e di crisi è il fatto che vanno garantiti attraverso una gestione pubblica i servizi essenziali, è evidente a tutti appunto la contraddizione che è emersa rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, che è stato definanziato negli ultimi anni, che è stato privatizzato, e ovviamente la nostra legge che riguarda il servizio idrico, ma che comunque è una proposta che va assolutamente in controtendenza, che è una proposta che vuole invertire la rotta rispetto a una modalità di gestione dei servizi pubblici che sono sostanzialmente messi sul mercato, e che quindi va nella direzione appunto di ripensare in maniera profonda e sostanziale il sistema, per cui adesso appena ce ne saranno le condizioni, ovviamente ripartiremo con questa nostra richiesta forte. Altra questione che vorremmo sottoporre è che in un momento in cui è evidente la crisi inizia a mordere, quindi ovviamente tutto quello che ha comportato e che sta comportando la pandemia, ma quello che arriverà e che sarà ancora più pesante sarà la crisi economica e sociale. E per cui a tanti vengono chiesti appunto degli sforzi e dei sacrifici. Quello che noi intendiamo chiedere è che le tante aziende che gestiscono il servizio idrico non si possono permettere di distribuire, per esempio, gli utili e quindi staccare quegli assegni che ogni anno vengono dati agli azionisti, con il gran piacere ovviamente delle grandi multinazionali e dei grandi azionisti privati che ovviamente guardano alla gestione del servizio idrico come un servizio che è fonte di profitto. Ecco, questi sono un po' gli aggiornamenti della battaglia per l'acqua. Ovviamente anche a livello territoriale prosegue il monitoraggio in un momento in cui è un po' tutto fermo, ma prosegue il monitoraggio su alcune vertenze che erano arrivate a un punto decisivo. Pensiamo per esempio ad Agrigento, dove era stata deliberata la gestione pubblica attraverso un ente di diritto pubblico in tutta la provincia di Agrigento, piuttosto che a Torino, dove era stato avviato il percorso per la ripubblicizzazione della SMAT, dell'azienda che gestisce a Torino e nei 300 circa comuni dell'Addo 3, quindi della cintura torinese. Ecco, su tutto questo i comitati sono attenti, attivi e ovviamente pronti a ripartire con la mobilitazione non appena ce ne saranno le condizioni. Un abbraccio a tutte e tutti e ci risentiamo circa fra un mese al nostro prossimo appuntamento. Ciao. E allora grazie a Paolo per gli aggiornamenti dal mondo dell'acqua. Questa era Entropia Massima Emergenza Zero. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 8 alle 9, sugli 87.9 in modulazione di frequenza e su ondarossa.info in streaming, dove trovate anche le vecchie puntate, i vecchi podcast di tutte le trasmissioni. Un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.